suelta des Herzen Zerbeton, Sure Hymne d'amor mia diese Liebe, che così puramente canto io, tal sia nel posto che ti innamoro. Sia benedetto chi t'ha costuma, pura colonna bianca e mohesina. Sia benedetta quella grassina e quel caro viseto in zucchero, e quel caro viseto in zucchero. Benedetta.